Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La cosa bella è che in oltre 2500 comuni in Italia sono state organizzate iniziative per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne. Poi noi sappiamo che è un impegno che è di 365 giorni all'anno, non basta il 25 novembre, lo sappiamo tutti. Però che ci sia una giornata in cui ci si ferma la televisione, i mezzi di comunicazione, i comuni, il governo, le scuole, e si dedichi del tempo a questo tema, che poi è un tema, è una piaga, purtroppo, è una cosa terribile, credo che sia un elemento di consapevolezza importante e soprattutto di condanna. E questa giornata, che ricordava la ministra Boschi, è quella di domani, il 25 novembre, che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Proprio alla vigilia di questa giornata c'è stato un nuovo femminicidio in Italia, tanto per tenere alta la media, no? Finora sono 116 le donne, quindi più di due ogni tre giorni, e fa bene la ministra Boschi, non solo lei naturalmente, a parlarne come di una piaga sociale, ma nel mondo, secondo i dati OMS diffusi appunto in occasione di questa giornata, la violenza di genere, cioè la violenza degli uomini sulle donne, è una delle prime cause di morte o di invalidità permanente delle donne in tutto il mondo. È un argomento di cui parleremo, ma ci soffermeremo molto anche oggi, tra l'altro, su questa ondata incredibile di maltempo nel nord-ovest, che ha colpito duramente in particolare la Liguria e il Piemonte, che hanno chiesto e stanno chiedendo lo stato di emergenza. Quindi ci collegheremo con chi è in Liguria, con chi è in Piemonte, con la protezione civile di una e dell'altra regione, con gli inviati, e voi per la vostra interazione, come sempre qui Effetto Notte, sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte in qualsiasi momento, e poi anche durante la diretta c'è il numero 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS, 349-238-6666. Quindi riassunto tra pochissimo della giornata, per avere come sempre a quest'ora un quadro esauriente delle notizie più importanti, e poi dopo la prima viabilità, dopo le 21.15, ve lo ricordo ogni volta, cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti. Allarme maltempo, esondazione in Piemonte e in Liguria, il post Ripa a Torino. Terremoto, sisma di magnitudo 7.2 al largo del Nicaragua, si teme un allarme tsunami. La manovra economica, previsti 5 milioni di euro per le donne vittime di violenza, e alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ennesimo femminicidio, una 29enne strangolata davanti ai figli dal marito che lei voleva lasciare. Referendum costituzionale, l'Economist prende posizione e dice che vota no, non è questa la riforma di cui l'Italia ha bisogno, dice il settimanale. Marchionne, amministratore delegato della Fiat Chrysler, si dice invece nauseato dal dibattito e spera che vinca il sì. Unione Europea, il Parlamento Europeo invita la Commissione e i governi europei a sospendere i negoziati di adesione in corso con la Turchia, condannando le misure repressive sproporzionate dopo il tentato golpe. Ankara ribatte, l'Europa è senza visione. Italiana uccisa in Brasile, arrestato un sospettato e un vicino di casa con precedenti per traffico di droga. Addio a Vittorio Sermonti, grande voce di Dante, scrittore, regista, attore. Calcio, serata di esami per le italiane in Europa League, ma andata male sia per la Fiorentina che per l'Inter. La Fiorentina che perde contro il Salonicco 2-3, e anche l'Inter contro l'Apoel Beersheba 3-2 perde. In campo adesso Atletico Bilbao, Sassuolo e Roma, Vittoria Plzen. Partiamo quindi dal maltempo che è imperversa, violento al nord, a nord-ovest soprattutto, e con particolare violenza su Liguria e Piemonte. Avete sentito che stanno chiedendo lo stato di emergenza. A Torino il Po allaga i murazzi. E per due giorni chiude lo stabilimento Ferrero ad Alba. In Piemonte esondazioni di torrenti, allagamenti, frane, strade chiuse, decine di abitazioni evacuate in Liguria. Dalla serata inoltre piogge temporali interesseranno anche Lazio, Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata e Puglia, quindi il maltempo si sposta anche al sud. Ma colleghiamoci intanto con il nostro Andrea Ferro dalla Liguria. Andrea. Buonasera Roberta. Buonasera, la Andrea. Val Bormida è ancora flagellata dalla pioggia che è imperversa dalla notte scorsa. È la zona della Liguria che sta soffrendo di più per effetto del passaggio di questo fronte perturbato. Il Bormida è esondato in più punti, ci sono paesi senza luce, decine gli sfollati. I comuni più colpiti sono Cairo, Calizzano e Bardineto in provincia di Savona, Cisano sul Neva e Pieve di Teco nell'Imperiese. Frane, ponti abbattuti, strade interrotte. Sul fronte dei collegamenti ferroviari i treni hanno ripreso a circolare, una notizia di servizio di poco fa, tra San Giuseppe di Cairo Cairo e Acqui Terme, ancora sospesa la circolazione tra Ceva e San Giuseppe. Va un po' meglio sul resto della Liguria di Ponente dopo un pomeriggio durissimo con torrenti esondati anche lì, allagamenti, danni, ma non è finita qui. Sulla base delle ultime osservazioni e le conseguenti valutazioni da parte degli esperti, la Protezione Civile ha confermato lo stato di allerta rosso sulla provincia di Imperia e l'entroterra di Savona fino a domani a mezzogiorno. Tra Spotorno e Portofino, quindi Genova compresa, l'allerta rossa sarà fino alle 6 di domattina e poi arancione, cioè declassata, fino alle 15. Significa che a Genova domani le scuole saranno regolarmente aperte, questo anche per porre fine ad una serie di leggende che si sono rincorse fino a pochi minuti fa. Restano invece chiuse praticamente in tutto il ponente, compresa la città di Savona. Un dato in termini di accumuli di pioggia, giusto per rendere l'eccezionalità di questo pomeriggio: al santuario di Savona il picco di piovosità 72 mm in un'ora. A te, Roberto. Grazie Andrea Ferro dalla Liguria. Adesso cerchiamo di capire qual è la situazione del maltempo un po' in tutta Italia, ma in particolare naturalmente nelle zone più colpite, con il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Paolo. Buonasera Roberta, vi stavo sentendo, vi stavo ascoltando, e quei 72 mm orari in realtà non sono il totale dell'acqua che è venuta giù, perché purtroppo in alcune zone del Piemonte e della Liguria abbiamo toccato i 200 mm come precipitazione totale. Sommate a quelle dei giorni scorsi, giustificano questi fiumi che ormai stanno esondando, quindi il Piemonte e il Ponente Ligure restano le zone più delicate, perché sta ancora piovendo e pioverà purtroppo anche nella giornata di domani e in maniera battente, quindi precipitazioni che insistono proprio nelle stesse zone ancora per le prossime 18-24 ore. E in più, come stavate dicendo, il tutto si sposta anche in altre zone dell'Italia, quindi sta piovendo in maniera piuttosto marcata anche sulla Lombardia occidentale, sull'Emilia. Arriveranno piogge intense in Toscana, Lazio, Campania tra stanotte e domattina, e poi arriva anche al sud. Il sud probabilmente sarà il versante ionico della Calabria e il Salento a vedere domani precipitazioni importanti. Ora, il problema del nord-ovest è che è da 5 giorni che piove. In queste altre zone prevediamo piogge nelle prossime 18-24 ore, quindi incrociando le dita probabilmente non avremo situazioni così critiche, così drammatiche. Si spera. Si spera, esatto, perché le piogge saranno comunque importanti anche da quelle parti. Paolo, poi ci ricolleghiamo magari verso la fine della trasmissione, così ci dai altri aggiornamenti per le previsioni delle prossime ore. Grazie Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Adesso cambiamo per un po' argomento con la politica e lo scontro sul referendum, naturalmente. Renzi torna sulle possibili ricadute economiche. Il 4 dicembre sarà una grande espressione di democrazia, perché un paese maturo va a votare senza inseguire polemiche e inchieste. Matteo Renzi passa al contrattacco sull'allarme e brogli sul voto estero lanciato dal Movimento 5 Stelle, ma anche sulle accuse al governatore della Campania Vincenzo De Luca, che sprona i sindaci a portare la gente alle urne per il sì. Per Renzi sono solo un diversivo per non entrare nel merito delle riforme costituzionali. Poi il Premier parla anche della preoccupazione sui mercati. Se si ferma il paese, chi ne fa le spese? Non sono, come dicono alcuni, grandi mercati internazionali, quelli se la cavano sempre. Ma se il paese si blocca, chi ne paga le spese? È il ceto medio, è la gente che vuole arrivare alla fine del mese. Renzi incassa il sostegno dell'amministratore di Fiat Chrysler Sergio Marchionne, che si dice nauseato dal dibattito e dagli insulti. La riforma non è perfetta, dice Marchionne, ma qualcosa va fatto. Poi si può sempre migliorare. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi in serata l'avete sentito dai titoli che vi ho raccontato, il settimanale britannico Economist ha preso posizione e dice che voterà no sul referendum, dice non è questa la riforma di cui l'Italia ha bisogno. Intanto i 5 Stelle polemizzano ancora sul voto all'estero. Gli italiani residenti all'estero potranno votare fino al 1 dicembre, ma la regolarità e la trasparenza di questa operazione è ancora al centro delle polemiche da parte del fronte del no. I 5 Stelle insistono sul pericolo brogli, mentre il vicepresidente del Senato, il leghista Calderoli, denuncia la mancata risposta del governo ad un'interrogazione sul tema. Intanto si scaldano i motori per le manifestazioni, quella di sabato a Roma del Movimento 5 Stelle e quella di domenica, sempre nella capitale, che riunisce un fronte variegato per il no, sindacati, studenti, ma anche NOTAV, comitati per l'acqua, beni comuni, possibile anche la partecipazione di alcuni esponenti della sinistra. Intanto Roberto Speranza, leader della corrente di sinistra riformista, ribadisce ribadisce il suo no. Io sono molto convinto delle ragioni del no, le sto spiegando in giro per l'Italia, incontro un'attenzione vera e sono preoccupato perché credo che il dibattito in questi giorni sia un dibattito che non fa bene al paese. Così invece da Forza Italia Stefania Prestigiacomo. No, perché la riforma Renzi non semplifica né velocizza l'esame delle leggi, sottrae ai cittadini la possibilità di eleggere i propri senatori e crea forti scontri tra le regioni e lo Stato con conseguenze molto negative per i cittadini. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E questa mattina Silvio Berlusconi, ospite di Mix 24, ha detto che comunque non ci saranno ricadute politiche per Renzi. Intanto è assai probabile che Renzi resti perché conserva la maggioranza in Parlamento, una maggioranza diciamo artefatta, ma comunque una maggioranza. Comunque lui ha personalizzato il referendum per cercare quella legittimazione elettorale che non ha mai ottenuto dalle urne. Ma quindi anche se perdesse, secondo lei deve restare? Io alla maggioranza, quindi sarà no, una ma sua cosa pensa? Decisione, ma non ha saremo un'opinione. Noi a poterlo mandare a casa. Quindi. La manovra economica adesso alle donne vittime di violenza e ai loro figli saranno destinati 5 milioni annui nel triennio 2017-2019, lo prevede un emendamento della legge di bilancio approvata in commissione alla Camera. Le risorse andranno al piano antiviolenza, ai servizi territoriali, ai centri antiviolenza e ai servizi di assistenza alle donne. E alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che è domani 25 novembre, ennesimo femminicidio in Italia, il 116esimo dall'inizio dell'anno, un uomo di 59 anni a Seveso, vicino Monza, strangolato la moglie di 29 anni che dopo una prima separazione lo voleva lasciare definitivamente. Tra l'altro l'omicidio è avvenuto davanti ai due figlioletti. Il 26 novembre, sabato, a Roma, poi ci sarà una grande manifestazione per ricordare le vittime di violenza. Le associazioni promotrici, in una lettera aperta alla presidente della RAI, Monica Maggioni, hanno chiesto oggi il ritiro immediato dello spot che la TV pubblica sta trasmettendo in occasione appunto della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Utilizza questo spot una bambina per dire a lei e alle sue coetanee che le toccherà una delle sorti più dolorose che possa toccare a una donna, ma la violenza sulle donne non è inevitabile, precisano dal comitato e chiedono di ritirare questo spot. Unione Europea, il Parlamento Europeo invita Commissione e Governi Europei a sospendere i negoziati di adesione in corso con la Turchia, condannando le misure repressive sproporzionate, dice il Parlamento, dopo il tentato golpe in Turchia. Ankara ribatte, l'Europa è senza visione. All'estero, un terremoto di magnitudo 7.2 si è verificato a largo del Nicaragua e del Salvador, lo riferisce l'Istituto Geofisico Americano. Non sono segnalati danni, ma c'è un allarme tsunami al momento. E poi in Iraq almeno 80 persone, di cui molti pellegrini iraniani, sono morte nell'esplosione di un camion bomba guidato da un kamikaze oggi a sud di Baghdad, lo riporta la televisione panaraba Al Jazeera. E c'è anche un aggiornamento sulla donna italiana uccisa in Brasile. È stato arrestato un uomo sospettato di aver ucciso Pamela Canzonieri, l'italiana trovata morta giovedì scorso a Morro di San Paolo, nello stato di Bahia, in Brasile. Si tratta di un vicino di casa della giovane, aveva precedenti per traffico di droga. Di nuovo in Italia, per parlare della scomparsa di Vittorio Sermonti, scrittore, attore, regista, grande appassionato di Dante, morto ieri sera a Roma all'ospedale Sandro Pertini. Sermonti era nato il 26 settembre del 1929 a Roma, aveva 87 anni, e sua è una rilettura di Dante che aveva avuto una grande fortuna portando un grande pubblico a seguire le sue letture pubbliche. Salvatore Carruba, che in quell'occasione l'aveva intervistato, gli aveva chiesto con quale dei due si fosse divertito di più. Con Virgilio. Mi sono divertito di più e mi sono stancato molto di più. E la scommessa era più arrischiata e non avevo mai fatto un tentativo del genere. E la scommessa era quello di lavare via la ampollosità che 2000 anni hanno depositato sull'Eneide e far vedere che sotto c'è oro. E in chiusura di questa prima parte di Effetto Notte, di racconto della giornata, il calcio con la serata di Europa League, con due italiane che hanno giocato nel tardo pomeriggio, Fiorentina-Inter, che hanno perso per 3-2 tutte e due con le squadre avversarie, e poi quindi l'Inter è fuori dall'Europa League, e poi adesso sono in campo il Sassuolo contro l'Atletico Bilbao e Roma contro il Viktoria Plzen, e il Sassuolo è in vantaggio per 1-0 sul Bilbao. Su questo risultato quindi ci lasciamo brevemente, vi ricordo per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Ringrazio Francesco Daudine, che è contento che la mia bronchite vada un po' meglio, dice comunque take care, insomma prenditi cura, sa che ci si trascura un po'. E poi invece un Carlo da Torino dà una testimonianza da dove si trova, dice: qui è 20 km a sud di Torino, viene giù il mondo, acqua che sembra neve e raffiche che sembrano frustate. E tra poco ci aggiorneremo appunto sui luoghi più colpiti, sulle regioni Piemonte e Liguria. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, le notizie le avete sentite, quindi tutto il quadro generale della giornata, dei fatti più importanti. Adesso cominciamo ad affrontare alcuni dei temi della giornata, naturalmente il maltempo, tra poco ne parleremo, Roberta Giordano sempre con voi. Ci collegheremo prima di tutto con Alba, dove lo stabilimento, che è più importante, della Ferrero, chiuderà per diverse ore, ha chiuso dalle 18 di oggi e dovrebbe essere chiuso per tutto domani, ma poi sentiremo tra poco. Intanto i vostri messaggi sempre alla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, dove per esempio questo ascoltatore, mi pare che non si firmi, dice: violenza sulle donne, visto che ne parleremo anche di questo, tutti ne parlano ma pochi collaborano. Intervista a Simona Pedroli, vicepresidente dell'associazione Terra Donna, anche nella provincia piemontese del Verbano, Cusio, Ossola, istituzioni come province e comuni sono assenti. Perché? Diceva, insomma, io al momento non so dare una risposta e non so se sia effettivamente così, ma è chiaro che diventa una responsabilità di tutti a livello territoriale e a livello nazionale, a livello internazionale, anche visto che domani è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ma tra poco parleremo di maltempo, intanto vi ricordo le notizie più importanti. L'Economist settimanale britannico si schiera e dice: voteremo no al referendum italiano, l'Italia non ha bisogno di queste riforme, mentre Marchionne, amministratore delegato di Fiat Chrysler, dice: sono nauseato da questo dibattito e spero che vinca il sì. E poi incubo alluvione in Piemonte e Liguria, il Po esonda Torino, Ferrero chiude la fabbrica, il presidente della regione Piemonte Chiamparino dice: peggio del 94. E poi manovra economica, 4 giorni ai neopapà, queste sono per ora le misure, saltano gli incapienti, e poi 5 milioni per la lotta alla violenza contro le donne. E c'è tra l'altro un nuovo femminicidio, il 116esimo dall'inizio dell'anno, ne parleremo a breve. E poi addio Vittorio Sermonti, grande voce di Dante, il suo Inferno alla TV ebbe un grande successo. Quello che sentite è il Tanaro, il fiume in Piemonte che è esondato, lo sentite con tutta questa carica di acqua enorme che spaventa solo a sentirlo. Quindi cominciamo da questa violenta ondata di maltempo, ondata è davvero la parola giusta per l'acqua che sentite dei fiumi sono esondati sia in Piemonte che in Liguria per la pioggia che è venuta giù, quindi un maltempo che colpisce il nord-ovest, come avete sentito all'inizio, in particolare proprio queste due regioni, interi paesi isolati, fiumi esondati, cittadini evacuati. Ma ci colleghiamo prima di tutto con la nostra Raffaella Calandra, che è ad Alba. Raffaella. Ciao Roberta, io sono esattamente lungo gli argini del fiume Tanaro che abbiamo ascoltato poco fa, e anche qui la voce del fiume è quella che avete sentito. Sono ai piedi di uno dei ponti chiusi di Alba in compagnia del sindaco, che ha fatto evacuare un camponomo di questa mattina e ha disposto anche l'evacuazione delle famiglie che abitano qui nella zona, e ci si prepara ad una lunga notte di attesa perché il livello del fiume è alto, ma ce lo facciamo raccontare direttamente dal sindaco. Prego. Sindaco, sì, buonasera. Buonasera. Sì, siamo in un momento difficile, insomma abbiamo una piena significativa del Tanaro, abbiamo attivato tutti i piani di protezione civile che hanno comportato la chiusura del ponte Albertino della città. La Ferrero ha chiuso questa sera alle 18 e riaprirà solo domani sera, e abbiamo già, diciamo, in alcune zone della città chiesto ai cittadini che abitano ai piani terra, ai primi piani, di salire al secondo piano, in particolare in Corso Bra e località Vivaro. In questo momento il fiume è molto alto, ma da un tre quarti d'ora non sta più crescendo, se si stabilizza bene, altrimenti questi quartieri, Vivaro e Corso Bra, saremo costretti ad evacuarli completamente. Sindaco, comunque ecco, sembra... abbiamo sentito qual è il quadro, Roberta, appunto, preoccupazione. Anche perché qui l'alluvione aveva fatto anche vittime nel 94. Comunque, insomma, sembra che le condizioni, da quello che ci diceva anche il meteorologo, potrebbero migliorare. Il sindaco sta valutando questa... che effettivamente ci diceva, no, che anche il fiume ha avuto un rallentamento, si è un po' ridimensionata la situazione. Sì, in questo momento, ve lo faccio ridire da voi, ma in questo momento appunto si monitorano tutti dei punti di riferimento rispetto alla piena del Tanaro, che a guardarlo fa impressione con la sua onda di acqua fangosa, ma il livello sembra non crescere più. Quanto è alto, sindaco? In questo momento è alto 5,50 m, era cresciuto in due ore di circa 1,80 m e adesso si è stabilizzato da tre quarti d'ora, ma questo è un livello straordinario, sono stati superati i vecchi argini che erano stati superati nel 94, per fortuna sono state fatte tante opere, delle arginature nuove che stanno tenendo, ma è un livello... è sicuramente il livello più alto dal 1994 ad oggi. Meno male però sono state prese queste misure di sicurezza. Raffaella, ci confermi tra l'altro che lo stabilimento famoso della Ferrero Olio d'Alba ha chiuso? Sì, adesso sono di nuovo io, sì, la Ferrero ha chiuso da questa sera, resterà chiuso, come diceva il sindaco poco fa, fino a domani sera, anche per appunto per rispondere alle richieste della Protezione Civile, che appunto chiede anche di mettersi in viaggio, di spostarsi il meno possibile. C'è un problema di frane, di microfrane anche nelle zone, soprattutto quelle dei paesi intorno, i centri principali, che alcuni dei quali sono anche hanno anche difficoltà di corrente elettrica e di appunto raggiungimento, perché appunto ci sono delle frane su delle strade secondarie. Ad esempio a Ceva sono state anche portate le persone che erano rimaste bloccate nella ferrovia, quindi insomma c'è soprattutto nei centri più piccoli la situazione più critica, ma chiaramente anche qui c'è molta preoccupazione. Grazie Raffaella Calandra, nostra inviata. Raffaella, tra l'altro diciamo il nostro, lo sappiamo ormai da tanto tempo, è un paese a grave rischio idrogeologico, sia per la sua conformazione e anche perché spesso ci sono degli insediamenti diciamo nei luoghi troppo vicini ai fiumi e corsi d'acqua. Adesso parliamo con la dottoressa Mariella Monticone della Protezione Civile di Regione Piemonte. Buonasera Monticone. Buonasera. Quindi abbiamo sentito, soprattutto per quanto riguarda la zona di Alba, ma un po' tutto il Piemonte, vedevo poco fa che il presidente della regione Chiamparino dichiara lo stato di emergenza. Sì, esattamente, perché sicuramente la parte meridionale del Piemonte, il Cuneese in particolare, è stato fortemente colpito, Alba ne è un segnale, ma abbiamo cittadine come Garessio, come Ceva, come Ormea e tanti altri piccoli centri che sono veramente provati da questo evento. Volevo però, visto che è stato citato da molti l'evento alluvionale del 94, evidenziare la differenza con quello con quella situazione là, quando purtroppo non esisteva un sistema di protezione civile collaudato e quindi molte persone hanno perso la vita in quella situazione perché non è scattato in anticipo il segnale di emergenza. Ecco, in questo alluvione che lascerà tanti danni, che lascerà comunque dei problemi, però perlomeno finora la salvaguardia della vita umana siamo riusciti ad averla. Ecco. Infatti, mi pare che la notizia buona sia che non ci dovrebbero essere sicuramente non morti, ma neanche feriti? No, perché comunque con i sistemi di previsione, di allertamento e di monitoraggio che in questi 20 anni sono stati messi a punto, si riesce perlomeno a prevedere con anticipo e a organizzarsi per far fronte a quello che può avvenire. Poi è chiaro che l'acqua e i fenomeni non si possono bloccare, però ecco, i segnali che voi avete rappresentato, per esempio ad Alba, che è sicuramente una città all'avanguardia sul sistema di protezione civile, stanno a indicare come si è riusciti a chiudere una grossa fabbrica perché non ci sia il problema della viabilità, dello spostamento, c'è un controllo dei quartieri più a rischio, l'evacuazione avverrà in tempo reale se necessario, tutti i segnali di come la macchina si è messa in moto e ha fatto funziona. Fronte a queste situazioni, insomma. E questo sta avvenendo un po' in tutto il territorio, grazie ai nostri sindaci, ma grazie a tutte le strutture che si sono mosse in tempo, non ultima tutto il sistema del volontariato. Grazie dottoressa Mariella Monticone della Protezione Civile di Regione Piemonte e buon lavoro quindi, che insomma, grazie, per un po' avrete grazie. Ancora da fare. Grazie. Grazie. Grazie, buona serata. Adesso invece ci colleghiamo con Sergio Di Stefano, che è sindaco di Garessio, vicino Cuneo, perché nel Cuneese è la zona in Piemonte appunto più colpita. Buonasera. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera. Quindi prima ci siamo collegati con Alba e invece sì. A Garessio come siete messi adesso? Ma guardi, il nostro amatissimo Tanaro, che in questo caso è, potremmo definirlo odiatissimo, mi dispiace fare queste parole, però in questo caso è stato più violento del normale. Sentivo che si faceva dei riferimenti all'alluvione del 94. L'alluvione del 94 ha dato dei danni non indifferenti tra alcune zone che non le nostre, ha portato anche purtroppo a delle morti di persone. Nel nostro caso però è stata una cosa molto molto violenta e per fortuna, grazie al sistema di allerta e alla prevenzione che abbiamo potuto applicare, siamo riusciti ad anticipare un pochino la situazione. Abbiamo chiuso le scuole, abbiamo chiuso gli stabilimenti in ultimo lo stabilimento farmaceutico che è proprio prospiciente il fiume Tanaro, che ci ha dato la possibilità di prendere le dovute precauzioni. Però dobbiamo dire che in questo momento non sembra mollare la presa, perché sta piovendo fortissimo e addirittura sembra che verso la mezzanotte ci dia ancora un colpetto per far capire che non è ancora finito la sua sì, sindaco. Ce lo diceva anche il nostro meteorologo che nelle prossime ore purtroppo pioverà ancora. Siamo nel disguido in generale, siamo soddisfatti che non ci siano purtroppo problemi alle persone, che abbiamo superato facendolo anche noi, facendo in maniera che la gente si riporti ai secondi e ai terzi piani, perché i nostri fabbricati una stagione sono tutti generalmente di 2-3 piani. Però siamo preoccupatissimi perché cos'è successo? Uno dei ponti principali della città non ha fatto altro che essere praticamente sfasciato in parte, e però ha creato una diga che ha convogliato tutto l'alveo del fiume in una zona della città che ha completamente allagato, naturalmente per i piani bassi. A questo punto ci stiamo organizzando, in prima battuta ci siamo organizzati con i nostri volontari del servizio civile, con i nostri volontari dei vigili del fuoco, abbiamo avuto rassicurazione e già questa sera ci sono giunti degli aiuti da parte delle associazioni organizzate in questi termini. Pensiamo di sbarcare ancora la notte e di poter arrivare domani mattina con condizioni relativamente buone, vista la situazione così difficile. Ancora una cosa, l'unico problema che ci preoccupa molto è il nostro isolamento, ossia le strade che conducono a Garessio, che sono chiuse sia a valle che a monte. Speriamo che si possano riaprire, perché in questo caso il fatto di essere completamente scollegati e isolati ci crea un'ansia non indifferente. Lei che il sindaco Sergio Di Stefano avrà naturalmente il compito anche di rassicurare tutti i suoi concittadini, si spera ancora di qualche ora di resistere, abbiamo visto che la macchina degli interventi funziona bene. Devo dire la verità, proprio i nostri cittadini si stanno comportando alla grande. Beh, questo aiuto che dicevo prima legato ai volontari si sta dimostrando anche nei cittadini, che si stanno dando da fare in tutti i sensi. A volte ci costringe a cercare di, di tranquillizzare un po' l'opinione. E come si dice, in genere l'Italia nell'emergenza reagisce sempre bene, questa diciamo, è una qualità del nostro paese al di là degli stereotipi. Sindaco Sergio Di Stefano, la ringrazio, la saluto, le auguro anche lei nelle prossime ore insomma buon lavoro e un abbraccio. Grazie. Ringrazio anche voi, grazie, molto gentili, buonasera a tutti, buonasera. Grazie, sindaco di Garesio, ricordo, nel Cuneese, che è una delle zone del Piemonte più colpite. Allora ci fermiamo temporaneamente adesso, voi continuate con le vostre interazioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Leo da Forlì dice: cemento ovunque, queste sono le conseguenze, complimenti, e questo solo l'inizio. Certo, in molte zone è così, non dappertutto, è chiaro che poi quando ci sono questi eventi così eccezionali, anche dove non c'è speculazione edilizia o costruzioni vicino ai fiumi, dei disagi ci possono comunque essere. Ci sentiamo tra poco. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Abbiamo parlato ampiamente di maltempo, in particolare per quanto riguarda il Piemonte. Adesso ci sposteremo invece in Liguria. Voi continuate con i vostri messaggi al 349-238-6666, alla pagina Facebook di Effetto Notte. Dice Gianni da Bologna: siamo in Italia dopo 22 anni di nuovo un'altra alluvione, hanno fatto molto infatti, dice Gianni. In effetti diciamo il nostro paese su certe cose rimane sempre un po' se stesso, anche se ci sono stati dei piccoli miglioramenti. Vi ricordo intanto quali sono, mentre voi continuate a scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, le notizie più importanti della giornata. Allarme maltempo, esondazioni in Piemonte e in Liguria, il post Ripa a Torino, terremoto, sisma di magnitudo 7.2 al largo del Nicaragua, si teme un allarme tsunami. La manovra economica, previsti 5 milioni di euro per le donne vittime di violenza, alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ennesimo femminicidio, una 29enne strangolata davanti ai figli e dal marito che lei voleva lasciare. Referendum costituzionale, l'Economist prende posizione e dice che vota no, non è questa la riforma di cui l'Italia ha bisogno, dice Marchionne, amministratore delegato di Fiat Chrysler, si dice invece nauseato dal dibattito e spera che vinca il sì. Unione Europea, il Parlamento Europeo invita la Commissione e i governi europei a sospendere i negoziati di adesione in corso con la Turchia, condannando le misure repressive sproporzionate per il tentato golpe. Addio Vittorio Sermonti, grande voce di Dante, scrittore, regista, attore. Quindi dicevamo, abbiamo parlato ampiamente del Piemonte, spostiamoci sulla Liguria, anche lì è allerta rossa, esondazioni, torrenti, allagamenti, frane, strade chiuse, decine di abitazioni evacuate, centinaia di sfollati, ma ce lo facciamo raccontare meglio naturalmente da chi è e si occupa sul posto, è Federico Grasso della Direzione Generale di ARPAL, che è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure. Dottor Grasso, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. La situazione com'è in Liguria adesso? Beh, in questo momento purtroppo abbiamo una nuova intensificazione delle precipitazioni sulle aree già interessate dalle abbondanti piogge degli ultimi giorni. In particolare l'accumulata dell'ultima ora pieve di Teco di 43 mm, siamo nell'alta Val d'Arroscia dell'Imperiese, è tutta la zona però limitrofa interessata da precipitazioni intorno ai 40 mm all'ora, così come nuovamente in Val Bormida, la valle già duramente provata questo pomeriggio dalle piogge. Senta, per le prossime ore, ci diceva, le previsioni meteorologiche sono appunto di pioggia che continuerà, diciamo dal punto di vista della macchina organizzativa, degli interventi, come in Piemonte sta funzionando anche da voi comunque? Sì, si sta andando avanti con la massima allerta che è stata prolungata fino a domani a mezzogiorno sulle zone appunto dell'estremo ponente della Val Bormida, e poi si uscirà dall'allerta con un passaggio all'arancione fino alle 3 di domani pomeriggio. Sul posto sono attivi tutta la macchina di protezione civile, i vigili del fuoco e le altre forze dell'ordine per cercare di limitare i danni. Anche in Liguria per fortuna mi sembra che non ci siano, oltre non morti ma neanche feriti, persone in particolare difficoltà? No, fortunatamente non abbiamo avuto notizie di danni alle persone, ovviamente ci sono stati problemi con allagamenti, interruzioni di viabilità, frane e quant'altro, ma non abbiamo notizie di problemi alle persone. Dichiarazione anche voi dello stato di emergenza, richiesta dello stato di calamità? E questa è una decisione che dovrà prendere la protezione civile, l'assessore o il presidente della regione. Penso sia un'opzione che stanno valutando molto seriamente. Grazie intanto allora Federico Grasso e buon lavoro anche a lei. Altrettanto grazie a voi, buonasera. Grazie, della Direzione Generale di ARPAL. Sua moglie mi ha detto che è caduta. Ma lei può dirmi come? Mia moglie è molto distratta a volte. Senti, noi abbiamo pensato di andare al mare. Che fai? Vieni con noi. Billy, basta, stai zitto. Fa bene a portarselo dietro. Di questi tempi una bella donna come lei. Questo che sentite in sottofondo è un trailer dell'Amore rubato, il film di Irish Braschi, ispirato all'omonimo romanzo di Dacia Maraini, evento speciale che arriva nelle sale a fine novembre e distribuito da Microcinema per la giornata internazionale contro la violenza delle donne, appunto, che è domani e sarà trasmesso poi dalla RAI l'8 marzo. Di questo parliamo, e alla vigilia della giornata internazionale della violenza contro le donne c'è stato l'ennesimo femminicidio in Italia, questa volta a Seveso, vicino Monza. Un uomo di 59 anni ha strangolato la moglie di 29 anni che lo voleva lasciare. Sono 116 le donne uccise finora dall'inizio dell'anno in Italia, più di una ogni 3 giorni, pensate, con la Lombardia che detiene il primato. E secondo le stime dell'OMS, diffuse in occasione appunto di questa giornata, la violenza di genere è una delle prime cause di morte o di danni permanenti per le donne nel mondo. E nell'ultimo mese in Italia sono rimasti orfani di queste madri uccise dai loro compagni, ex compagni, mariti, ex compagni, ben 18 figli nell'ultimo mese. Ne parliamo con Annarita D'Ambrosio, che è qui con me. Ciao Annarita, che adesso Ciao. Sta facendo interviste in questi giorni in occasione proprio della giornata di domani. Ti sei occupata di questo? Sì Roberta, questi bambini di cui abbiamo parlato, come da ultimo quelli dell'ultimo episodio che hai citato, quello di Seveso, in realtà, perché è stata uccisa davanti, tra l'altro, a 2 figli piccoli, no? Sì, ma restano senza mamma, ma anche senza papà. Certo, cioè, poi sono bambini. Cioè, quest'uomo in una manciata di minuti ha distrutto 4 vite, e questo lo trovo francamente inaccettabile. Trovo inaccettabile che questo fenomeno del quale si parla, e che purtroppo è un fenomeno antico, molto antico, se ne parla oggi di più perché è aumentata la consapevolezza. Però ecco, i dati, quelli che tu hai citato, sono dati di un fenomeno che basta anche chiamare emergenza, non dobbiamo manco più chiamarlo emergenza, dovremmo fare qualcosa. Annarita, tra l'altro, appunto, c'è questa situazione un po' bipolare nel nostro paese. Da una parte, come dicevi tu, maggiore consapevolezza, e dall'altra un'iperviolenza nei confronti delle donne. Abbiamo detto più di 2 donne ogni 3 giorni, quindi c'è consapevolezza, ma dall'altra evidentemente c'è più denuncia oggi rispetto al passato. Cioè, purtroppo sono fenomeni che ci sono sempre stati. Se pensiamo che il delitto d'onore nel nostro codice penale è scomparso nel 1981, quindi fino all'81 gli uomini avevano queste attenuanti. No, di poter uccidere per una è un problema culturale, un problema grave sul quale però forse si dovrebbe fare qualcosa di più concreto. Oggi una donna o si rivolge ad un centro antiviolenza, e speriamo che continuino a proliferare, perché sono l'unico aiuto nel completo anonimato al quale si può rivolgere. Sono problemi anche di fondi, anche se oggi appunto c'è stato per fortuna uno stanziamento. Sono tante le iniziative per la giornata di domani. Io ne ho scritte qui qualcuna tra quelle più singolari. Per esempio, sempre in tema di denuncia, a Roma il camper della Polizia di Stato del progetto Questo Non è Amore, che ha a bordo un'equipe specializzata dove le donne possono parlare, possono anche solo sfogarsi, perché una donna che subisce violenza e non riesce a parlarne soffre ancora di più, ed il problema nasce tutto da qui, anche forse dalla vergogna di raccontare quello che succede. E allora domattina inizierà il suo viaggio già alle prime luci dell'alba a Roma, in Piazza del Popolo, e poi girerà la città, quindi l'iniziativa della Polizia di Stato. A Napoli l'ospedale principale di tutto il Mezzogiorno, l'ospedale Cardarelli, sarà illuminato con una luce rossa, un fenomeno, abbiamo detto, i dati ci parlano più forte al nord rispetto al sud, ma al primato la Lombardia, però ci sono altre problematiche al sud. Spesso al sud le donne non denunciano perché economicamente dipendono dai loro compagni, non riescono a trovare un'autonomia economica che le consenta di iniziare una nuova vita. Addirittura Flavia Bustreo, candidata all'Italia della direzione generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, adesso è vice direttrice generale dell'OMS, denuncia che in Italia, anzi dice che in Italia non viene denunciato il 90% dei casi di maltrattamenti, quindi pensa, ecco, questo una percentuale infatti altissima. Poi, sempre come iniziative particolari, domani le agricoltrici di Confagricoltura distribuiranno le clementine in cambio di un'offerta libera nelle piazze di 4 città italiane: Bari, Bologna, Cosenza e Cremona. I soldi che saranno ricavati poi saranno appunto versati ai centri antiviolenza. C'è anche la grande manifestazione di sabato. Di sabato, no? La rete Non Una di Meno, che ha organizzato questa manifestazione e che giustamente ha detto detto, un giorno non basta. Per cui sabato a Roma c'è la grande manifestazione, dal giorno successivo le associazioni che aderiscono a Non Una di Meno si metteranno attorno ad un tavolo e lo scopo è quello di riscrivere un piano antiviolenza nazionale femminista. Pensa, pensa Narita, io spesso chiedo anche agli ascoltatori, ma chiedo in generale, cosa accadrebbe se invece che uomini che uccidono ogni 2 o 3 giorni una donna succedesse il contrario di donne che uccidono ogni 2 o 3 giorni un uomo. Cosa certo. Farebbero le istituzioni, la politica, le forze dell'ordine? Ci sarebbe questa specie ormai di routine assodata e in qualche modo accettata? È un problema culturale. Oggi c'è stata anche la polemica sullo spot della RAI che mi sento di condividere. Ci sono una serie di bambini che dicono cosa vogliono far da grandi e termina con una bambina che dice, non so, probabilmente molti ascoltatori l'avranno anche visto, che dice io da grande andrò in ospedale perché mio marito mi picchierà. Giustamente la rete Non Una di Meno ha detto non è inevitabile, non è un destino che nessuna donna deve avere. Grazie Narita D'Ambrosio. Grazie. Ciao Narita. Viabilità. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano con voi. Vi ricordo velocemente le notizie mentre continuate a interagire con la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Abbiamo parlato molto della situazione dell'ondata di maltempo che sta colpendo il nord-ovest dell'Italia, in particolare Liguria e Piemonte. Abbiamo parlato anche della violenza contro le donne. Oggi un nuovo femminicidio, domani la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ma tra gli altri temi, appunto, l'allarme maltempo, esondazioni in Piemonte e in Liguria, il terremoto, sisma di magnitudo 7.2 al largo del Nicaragua, si teme un allarme tsunami, la manovra economica in cui sono previsti 5 milioni di euro per le donne vittime di violenza e alla vigilia di questa giornata, come dicevamo, ennesimo femminicidio con una 29enne strangolata davanti ai figli dal marito che lei voleva lasciare. Referendum costituzionale, l'Economist prende posizione e dice che vota no, non è questa la riforma di cui l'Italia ha bisogno, dice, mentre Marchionne, amministratore delegato di Fiat Chrysler, si dice nauseato del dibattito e spera che vinca il sì. E ora allo spazio europeo, parliamo di immigrazione, è ancora lontana una strategia comunitaria. Youzone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati gli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. C'è un dossier che a Bruxelles è sempre aperto e che aumenta sempre più di spessore ed è quello dell'immigrazione. Il capo del Dipartimento Immigrazione del Viminale, Mario Morcone, ha reso noti gli ultimi dati. Rispetto all'anno scorso, i migranti sbarcati in Italia sono aumentati del 16,41% e nei prossimi giorni il loro numero supererà la cifra record del 2014, quando a fine anno ne arrivarono 170.000. Anche i numeri dell'accoglienza sono in aumento. Se al 31 dicembre dell'anno scorso erano accolte 103.792 persone, a oggi il sistema ospita 176.645 persone. E viaggiamo verso le 200.000, ha detto Morcone, un numero che se fosse supportato dagli 8.000 sindaci non creerebbe alcun problema sul territorio. Ma ha aggiunto, così non è. C'è un'insofferenza sui territori diffusa per motivazioni più varie e questo determina difficoltà per i prefetti a trovare soluzioni. Allo stesso tempo la posizione dei paesi dell'Europa orientale, Ungheria in primis, sul tema dell'immigrazione non fa che aggravare la situazione, così come non c'è ancora a livello europeo una risposta unitaria, efficace e rapida. Ne parliamo con l'europarlamentare Salvo Pogliese, che saluto. L'Italia ha bloccato il bilancio UE perché mancano garanzie su sicurezza e immigrazione. Qual è la situazione in Europa? L'assoluta anomalia dell'Europa credo sia rappresentata dalle 3 lingue diverse che si parlano all'interno delle istituzioni europee. Una lingua all'interno del Parlamento, un'altra all'interno della Commissione Juncker e la terza all'interno del Consiglio. Basti pensare a quello che è accaduto laddove il Parlamento ha avviato un percorso sul piano dei ricollocamenti straordinari di 160.000 rifugiati. La Commissione Juncker ha condiviso questo percorso, il Consiglio ha di fatto disatteso quanto di buono era stato fatto. Basti pensare che a distanza di 14 mesi dall'avvio di quel percorso edificante soltanto il 4% dei richiedenti asilo da ricollocare è stato effettivamente ricollocato negli altri 26 Stati membri ad eccezione di Italia e Grecia. Credo che questo sia l'esempio più eclatante del fallimento della politica europea sul tema dell'immigrazione. Quali sono i reali scenari di intervento? Ma Io credo che bisogna necessariamente accelerare il percorso, il progetto dei ricollocamenti per sancire un principio solidaristico all'interno dell'Europa. Bisogna modificare radicalmente Dublino 3 e bisogna anche e soprattutto accelerare il percorso dei rimpatri per chi non ha i requisiti per ottenere l'asilo politico o altre protezioni internazionali. L'anno scorso soltanto il 40% in Europa di chi doveva essere rimpatriato è stato effettivamente rimpatriato, in Italia il dato ancora più allarmante, poco più del 12%, credo che questo testimoni anche in tal senso il fallimento della politica europea. Youzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Ringrazio gli ascoltatori, anche Luca che parla di cambiamenti climatici, Bruno che dice non viene fatta la manutenzione, opere necessarie, quindi ci troviamo come ci troviamo, Fabrizio che dice a letto con la febbre 38,7, ma lo rilasso da morire. A tra poco.